Mi dicevi adesso vado all'estero, ma che cosa ci sto a fare qua? Vado in un paese civile, cioè vado a nord. Lì sanno apprezzare i miei titoli, di sicuro trovo lavoro che mi pagano bene, non una miseria come qua. Mi dicevi in Italia si sta male, io voglio partire, sono stanco di te, di lui, di noi, sono stanco di voi. Magari vado a Barcellona, che sono più avanti di qua, lì sicuro mi faccio capire, l'italiano e lo spagnolo sono uguali. Ma hai visto come è bella Amsterdam? Sento libero a Bruxelles, a Berlino che cultura c'è, a Londra ho tanti amici che stanno aspettando solo me. Ma guarda un po' chi c'è, tu non dovevi andartene via, lontano. Questa valle di lacrime e non mi dici più niente dell'estero, ma che cosa ti hanno fatto là? Ridi poco, guardi nel vuoto, di andartene non parli più. Se ti faccio una domanda specifica del periodo che hai passato in Europa, tu fai finta di niente, scuoti la testa, cambi discorso. Ma hai visto com'è bella Amsterdam? Mi sento libero a Bruxelles, a Berlino che cultura c'è?